Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. I dati diffusi ieri dall'Istat rilanciano una vera emergenza per il nostro paese. 15 milioni di italiani vivono in una condizione di grave disagio economico. Il rapporto Istat 2013 parla di deprivazione che avanza, usando anche un termine non certo ricorrente nel linguaggio quotidiano. Sono deprivate le famiglie che non hanno risorse addirittura per mangiare in modo adeguato, per riscaldare la propria abitazione, insomma per rispondere alle esigenze primarie. La fascia di popolazione in difficoltà è crescente da qualche anno e per dare un piccolo sostegno, come ricorderete, lo Stato distribuisce la social card, la carta acquisti, uno strumento di sostegno di cui sta partendo una nuova versione per la quale lo Stato ha stanziato 50 milioni di euro. L'iniziativa ne verrà sperimentata quest'anno in 12 grandi città. Si tratta dell'erogazione di un assegno mensile con un importo minimo di 231 euro per un nucleo familiare di due persone. Sono i comuni a dover individuare mediante una procedura di selezione casuale un gruppo di famiglie beneficiarie che saranno coinvolte in progetti personalizzati di superamento della condizione di povertà, reinserimento lavorativo, inclusione sociale. Salva Danaio fa il punto della situazione e racconta come sta partendo questa sperimentazione nelle diverse città interessate, anche se poi concretamente il denaro nelle tasche delle famiglie bisognose arriverà non prima del prossimo autunno. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666. Il numero per i vostri messaggi sul tema di questa mattina. Ci potete anche scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina Francesca Milano del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno e bentornato anche a Paolo Conti, direttore generale del CAF ACL, il Centro di Assistenza Fiscale. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per la sua disponibilità e poi faremo anche un giro per il paese per capire le varie città interessate a questa nuova, appunto, iniziativa, come si stanno attrezzando per individuare le famiglie più bisognose, perché come vi dicevo ci sono dei punti di partenza precisi stabiliti appunto dalla legge che introduce la nuova social card, ma poi le appunto amministrazioni comunali hanno anche la possibilità di un po' personalizzare i progetti locali. Abbiamo già collegato telefonicamente con noi Michele Testolina, responsabile dell'Osservatorio Politiche di Welfare del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Più tardi ci collegheremo anche con Torino e Genova, dove si stanno appunto attrezzando per la nuova social card. Prima di tutto questo, però, oggi merita un'osservazione abbastanza accurata l'andamento della giornata di borsa. -7,32%, performance di questo tipo non si vedevano da tempo, per fortuna, ma era anche nell'aria che prima o poi arrivasse uno stop molto deciso e forte per la borsa di Tokyo, che è cresciuta negli ultimi sei mesi di oltre il 60%, una crescita che è stata intensificata da un mese abbondante a questa parte dalla maxi iniziativa di stimolo monetario attivata dalla Banca Centrale del Giappone. Oggi il listino giapponese si è fermato in maniera molto prepotente perché sono arrivati segnali negativi dalla Cina, sono arrivati altri segnali negativi dagli Stati Uniti, dove il numero uno della Banca Centrale Americana ha detto che lo stimolo monetario invece americano potrebbe essere interrotto anche in tempi anticipati se la disoccupazione appunto alleggerisse un po' il suo peso. Evidentemente Bernanke ha visto che questo potrebbe accadere prima del previsto e ha già messo le mani avanti. E tutto questo stamattina ha determinato questo disturbo su Tokyo, che peraltro ha fatto sapere anche che sta riducendo appunto il numero degli investimenti, la quota degli investimenti sulle obbligazioni straniere, per cui insomma una ricaduta complessiva di queste misure internazionali, di queste notizie che arrivano un po' da tutti i fronti internazionali. La borsa di Tokyo è scesa in maniera così forte e naturalmente questo stamattina si fa sentire anche in Europa, con cali molto forti sui listini del vecchio continente. Londra perde 2 punti, più di 2 punti il calo della Spagna, Parigi -2,31%, Francoforte -2,66% e Milano adesso a -2,56%. Vi do solamente in rapida successione i peggiori titoli in assoluto, quelli che naturalmente negli ultimi tempi sono cresciuti di più, anche se c'è una situazione abbastanza differenziata. Prismian -4,15%, UbiBanca -4,14%, Mediobanca -3,38%, Banco Popolare -3,78%, Monte dei Paschi -3,74%. Era davvero da un po' di tempo che non vedevamo questo bollettino di guerra. Si salva solo Parma, Parmalat in questo momento, che segna più 0,25%. Noi tutto questo argomento, l'andamento dei mercati, lo approfondiremo domani a Salvadanaio. Oggi invece abbiamo dato la priorità alla nuova social card. I numeri parlano chiaro. Sono quasi 15 milioni gli individui che, secondo gli indicatori dell'Istat, si classificano in condizione di deprivazione o disagio economico, circa il 25% della popolazione italiana. Proporzione che però al sud aumenta nettamente, arrivando al 40% dei cittadini. Il disagio aumenta e cresce quindi l'esigenza di risposte e di aiuti, che arrivano dalle reti sociali, dal volontariato e dall'associazionismo, ma che devono arrivare anche dal welfare e dalla pubblica amministrazione. È nel contesto di queste necessità che si inquadra la sperimentazione della Social Card 2013, uno strumento a sostegno del reddito pensato per rispondere alle situazioni più critiche. Il governo ha stanziato 50 milioni di euro a copertura di questa carta acquisti bis, che va ad affiancarsi, senza sostituirla, alla prima Social Card di 40 euro mensili partita nel 2008. Si prevede l'erogazione di un assegno di 231 euro mensili per un nucleo di due persone, che diventano 281 per le famiglie composte da tre elementi, 331 euro per i nuclei con quattro persone e 404 euro da cinque componenti in su. La sperimentazione avverrà soltanto in 12 città italiane. Le famiglie potranno richiedere la carta acquisti rispondendo ad un bando del comune, che stilerà una graduatoria dei beneficiari. Tra questi, l'amministrazione sarà tenuta a selezionare un gruppo di famiglie da coinvolgere in progetti personalizzati finalizzati al superamento della condizione di povertà. Il tutto, naturalmente, potrà avvenire solo in presenza di determinati requisiti, come la presenza di un minore, l'ISEE inferiore a 3.000 euro, il rispetto dell'obbligo scolastico per i figli. Eh sì, i requisiti peraltro sono sempre estremamente stringenti, ma appunto l'obiettivo della misura è aiutare quei nuclei familiari, quelle persone che sono in grossa, grandissima difficoltà e disagio economico. Allora Francesca, Milano, peraltro c'è anche una novità in questa nuova social card, quella che verrà erogata anche ai cittadini stranieri a patto che abbiano un anno di residenza. Esatto, e soprattutto anche la carta di permesso di lungo periodo, quindi è un documento che non tutti gli stranieri hanno, ma rispetto alla prima social card, quella del 2008, è un passo in avanti per gli stranieri che vivono in Italia. Tra l'altro le due carte si accavalano in qualche maniera, perché l'altra sta continuando ad andare avanti. Si accavalano in realtà per un breve periodo, perché diciamo che la carta acquisti del 2008 continua a vivere probabilmente fino a fine anno, fino a fine 2013, e invece la carta sperimentale, la nuova social card, partirà in autunno, quindi per alcuni mesi ci sarà questo accavallamento. Accavallamento che però non può riguardare lo stesso nucleo familiare, diciamolo. Quindi se un nucleo familiare beneficiario della vecchia social card e vuole e ha i requisiti per fare richiesta per la nuova social card, deve rinunciare alla vecchia. Anche perché comunque gli importi sono un po' diversi, quindi magari effettivamente può essere un po' più vantaggioso fare la richiesta. Assolutamente, della nuova social card, per chi riuscirà a rientrare in questi requisiti diciamo molto stringenti, è una social card abbastanza ricca. Abbiamo sentito 231 euro al mese per le famiglie di due persone, di cui in realtà uno deve essere per forza minore, quindi si tratta di un genitore con un figlio, ma fino a 404 euro al mese per le famiglie con più di 5 componenti. Quindi rispetto ai 40 euro mensili della vecchia social card, effettivamente è uno strumento molto più ricco e molto più dà un aiuto molto maggiore. Certo. Però ecco, le persone che avranno diritto a farne richiesta e quindi ad ottenere l'erogazione sono famiglie che dovranno essere individuate dalle amministrazioni comunali. Volevo subito sentire come sta partendo, anzi è già partita, come si sta organizzando questa sperimentazione in queste 12 città italiane. Comincerei con Venezia. Michele Testolina era già stato nostro ospite nella trasmissione qualche mese fa, che avevamo organizzato appunto anticipando i contenuti nella Social Card 2013, responsabile dell'Osservatorio Politiche di Welfare del Comune di Venezia. A Venezia spetta qualcosa di più di 1 milione di euro, per qualche altro comune naturalmente la dotazione è un po' più ricca, ma voi come state personalizzando, dottor Testolina, appunto la Social Card 2013, perché c'è anche questa componente di personalizzazione dei vari enti locali interessati? Sì, buongiorno. Allora, noi abbiamo dato priorità, un po' seguendo anche le linee del decreto, sostanzialmente a nuclei con un solo genitore e figli minorenni e a nuclei in situazioni di disagio abitativo evidente. Insomma, ecco, queste sono due delle priorità che noi abbiamo individuato, oltre alle famiglie numerose o alle famiglie con figli disabili. Questi sono, diciamo, i genitori, le famiglie con un solo genitore e il disagio abitativo. Ecco, ai comuni spetterà tra l'altro il compito di pubblicare il bando attraverso il quale le famiglie meno abbienti potranno chiedere la carta acquisti. Entro quanto sarà tutto pronto, dottor Testolina, secondo voi? Avevo letto da qualche parte che non prima di fine agosto, appunto, ci sarà la disponibilità di avere una lista, una graduatoria, appunto, delle famiglie potenzialmente beneficiarie, forse anche in settembre. Ma guardi, diciamo che l'indicazione è che per metà settembre arrivi all'INPS una lista di cittadini messi in ordine, diciamo, di priorità e per i quali sono stati verificati diciamo, alcune caratteristiche che il decreto prevede per poter accedere diciamo, i controlli da parte del Comune. Poi l'INPS farà a sua volta i controlli relativamente all'ISEE, ai beni mobili e immobili previsti se sono entro il limite previsti dal decreto, e quindi diciamo la graduatoria finale probabilmente sarà disponibile entro ottobre. Lì saranno individuati i beneficiari. Teniamo conto che la stima è che il 30% circa dei richiedenti potrà accedere a questa misura, cioè non è una misura, diciamo così, universale, e chi ha i requisiti previsti dal decreto e poi dai bandi comunali automaticamente accede. Il limite dei 50 milioni fa sì che si stima che in tutte le 12 città solo il 30% potrà poi di fatto accedere alla misura. Voi quante famiglie pensate di poter, tra virgolette, accontentare? Tra l'altro, visto che Venezia è andata una dotazione tra le più contenute, appunto, di tutta questa somma complessivamente stanziata, appunto, dallo Stato, qual è la condizione di disagio economico che nella vostra città, appunto, dottor Testolina, si registra? Ma noi abbiamo una stima che è stata fatta anche insieme all'INPS, che potrebbero essere circa 1.500 i nuclei che potrebbero aver diritto a questa misura, e stimiamo di riuscirne a soddisfare, perché poi varia a seconda del numero di figli, eccetera, l'importo, tra i 300 e i 400. Un'ultima informazione, perché poi magari sentiremo anche se è come dire, una prassi che adotteranno anche gli altri comuni. Informerete direttamente le famiglie che potenzialmente hanno diritto, dottor Testolino, oppure no, dovranno far loro? No, perché stiamo pensando a molti canali oltre al bando pubblico sul sito del comune, perché noi dalla stima che abbiamo circa 350-400 famiglie che seguiamo con misure economiche che potrebbero avere le caratteristiche. Allora non siamo in grado di avere tutte le situazioni, parlo in particolare di quelle situazioni di nuclei familiari che negli ultimi 2 anni hanno perso lavoro, eccetera, e che non sono storicamente, mi passi il termine, in carico ai servizi sociali, quindi non siamo in grado di fare un avviso personalizzato, cosa che per esempio per i contributi alle famiglie numerose della Regione Veneto abbiamo fatto, perché da lì estraevamo dall'anagrafe diciamo, i nominativi. Quindi qui ci sarà tutto un impegno per giornali, manifesti, siti, eccetera, associazioni di volontariato, infatti, i CAF, coinvolgeremo i CAF che hanno contatti frequenti, perché queste famiglie devono fare l'ISEE, insomma attiveremo tutta una rete di soggetti che intercettano queste famiglie e queste situazioni. Perché molto spesso appunto sono delle situazioni problematiche che individualmente non si attivano in via personale, sì, certo, sì, fanno poi difficoltà. Poi ci sono anche delle famiglie che hanno bisogno, ma magari per remore, dignità, eccetera, magari non fanno richiesta. Esatto. E allora attraverso la rete informale del volontariato, dei CAF, eccetera, delle associazioni, probabilmente riusciamo anche a raggiungere con un messaggio un po' positivo queste famiglie, in modo che possano venire, perché davvero questa è una misura che, se fosse confermata e diventasse universale, potrebbe essere come dire, una base importante per poi metterci intorno percorsi di inserimento lavorativo, eccetera. Benissimo, grazie a Michele Testolina del Comune di Venezia. Noi questa mattina ci siamo fatti anche delle domande per capire se fosse troppo presto o meno per organizzare una trasmissione di questo tipo. Invece, dottor Testolina mi ha convinto che forse magari non arriviamo a queste persone, però magari per un passaparola ci possiamo arrivare indirettamente ad informarle di questa opportunità. Oggi a Salvadanaio parliamo di misure a sostegno delle famiglie in condizione di grave disagio economico. Sta partendo in 12 città italiane la sperimentazione per la nuova social card, la nuova carta acquisti che, come ci spiegava prima Francesca Milano del Sole 24 Ore, per un breve periodo di tempo si accavallerà anche alla vecchia carta acquisti, quella che permette appunto di avere circa 40 euro mensili per determinate tipologie naturalmente di persone, di contribuenti, di famiglie, di pensionati e tanti altri ancora. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Prima abbiamo sentito anche come si sta preparando la città di Venezia, tra poco ne sentiremo anche altre di città italiane. Adesso però sentiamo un po' cosa succede nei centri di assistenza fiscale, che chiaramente, oltre a tutta l'attività che stanno facendo in questo periodo, tra poco dovranno probabilmente anche dare informazioni su questo nuovo strumento. Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Cosa ne pensa dei target fissati da questo nuovo strumento? Dovevano essere forse un pochino elevati, o comunque è necessario sostenere le famiglie in disagio economico molto forte, dicevamo, quindi va bene anche questo? Ma considerando che si tratta di una sperimentazione che speriamo diventi poi la normalità, consideriamo che il target è veramente per valori di imponibili molto molto basso. 3.000 euro ISE, consideriamo che 3.000 euro ISE sono praticamente il valore, la metà del valore che era quello per l'accesso alla normale social card, e di conseguenza parliamo di valori veramente difficili da ottenere. Se consideriamo anche un'altra cosa, cioè che 50 milioni di euro rapportati al numero, al valore della prestazione, portano a non più di circa 15.000 soggetti che potranno essere 15.000 famiglie che potranno essere interessate, e 15.000 famiglie su un totale di 15 milioni di soggetti in difficoltà e in disagio rappresentano lo 0,1%. Per quello dico, ben venga se si tratta di una sperimentazione per capire i processi e le modalità attuative, poi sicuramente se questa sarà la strada dovrà essere finanziata con ben altri importi, altrimenti rischia di rimanere. Tra l'altro ho visto anche, ecco, che nella distribuzione delle città veramente ci sono delle differenze pazzesche. Noi siamo partiti da Venezia, a cui è stato dato 1.100.000 euro, 11 milioni e mezzo abbondanti a Roma, quasi 9 milioni a Napoli, e questo già ci dà anche l'idea un po' di dove si concentrano le emergenze, Conti. Eh sì, perché sono stati fatti le ripartizioni sulla base degli ultimi dati relativi alla povertà distribuiti dall'ISTAT, per cui non è fatto solo sugli abitanti, ma è fatto proprio sui soggetti con difficoltà. Roma, per esempio, è un'area che ha moltissimi soggetti in difficoltà. Noi cercheremo, per agganciarmi a quello che diceva il funzionario del Comune di Monaco, per dare informazioni. Noi faremo un'estrazione da quelli che sono i nostri archivi, dal nostro DB, di tutte le persone che hanno fatto negli ultimi 2 anni ISE presso di noi per valori inferiori a 3.000 euro e hanno un figlio minore all'interno del loro nucleo familiare. In questo modo cercheremo di dare proprio una informazione diretta a queste persone, a queste famiglie, per cui tutte le persone che hanno fatto un ISE da noi sotto i 3.000 euro con un figlio minore nelle 12 città verranno avvisate direttamente dai nostri uffici. Aspettiamo però che esca qualcosa di un po' più concreto da parte dei comuni, perché il rischio altrimenti è quello che noi chiamiamo le persone per informarle di un qualcosa però che poi non potranno ottenere, certo, non vogliamo illuderle. C'è però da dire anche un'altra cosa, che magari, ecco, tutti adesso ci concentriamo sulla social card, c'è però magari da essere anche un po' attenti a quello che accade sul territorio, perché spesso ci sono anche iniziative di cui non si ha conoscenza, organizzate appunto magari dalle amministrazioni comunali. Noi adesso parliamo di queste 12 città che sono coinvolte nella sperimentazione della nuova social card, ma proprio per affrontare l'emergenza economica di tante persone, tanti comuni, anche con delle risorse limitatissime che sono quelle che hanno in questo momento, Conti, in realtà magari qualche volta basta informarsi, andare presso, che ne so, magari l'assessorato alle politiche sociali, e qualche iniziativa sul territorio c'è che non passa magari attraverso i CAF o altre, come dire, centri istituzionali, no? No, lei ha perfettamente ragione, tant'è vero per dire che l'esperienza della cosiddetta vecchia social card insegna anche questo, cioè i parametri di finanziamento della vecchia social card che dovevano servire per 2 anni, in realtà finiranno, come ha detto il giornalista del Sole, probabilmente con la fine dell'anno. La vecchia social card era stata finanziata molto di più rispetto a quelle che erano le reali poi potenzialità di distribuzione, perché noi siamo convinti che a tutt'oggi esistano fasce di popolazione che avevano diritto e che hanno tuttora diritto alla social card, ma che non hanno fatto poi domanda, non sono stati avvisati correttamente. Purtroppo l'ente pubblico oggi non riesce a intercettare in maniera univoca le persone con disagio sociale, e questo forse è la carenza più grossa. C'è anche da ricordare che l'altra carta, come lei si ricorderà, era anche partita con qualche problema, perché in realtà molti anziani soprattutto erano andati a ritirarla alle poste, perché mi ricordo che veniva distribuita attraverso quel canale pensando di averne diritto. Le poste distribuivano a tutti coloro che ne facevano richiesta sulla base di un'autocertificazione, poi magari si andava al supermercato con la convinzione che questa fosse caricata dei famosi 40 euro mensili, poi la prima dotazione fu di 80, perché credo che vennero caricati un paio di mesi, quindi probabilmente questa nuova operazione vuole essere un po' più razionale anche nella distribuzione. Sempre lì nell'ottica del non illudere, no? Sì, è la cosa peggiore in assoluto. Esatto. Adesso per fortuna da 1 anno e mezzo a questa parte anche la vecchia social card cosiddetta ha una modalità di distribuzione che prevede la fornitura della card solo dopo le opportune verifiche, di conseguenza la card che viene fornita oggi è già carica. Io le dico, spero molto in questa sperimentazione proprio per riuscire a mettere a punto tutti i passaggi informatici di rapporto con i comuni, con i CAF, con le associazioni volontariate e così via, per testare. Speriamo poi che diventi qualche cosa di ben più concreto e sostanzioso dal punto di vista economico. Qualche testimonianza le faccio sentire, Conti, poi magari a questi ascoltatori rispondiamo tutti insieme. Cominciamo con Walter dalla provincia di Chieti, che si lamenta del fatto che lui è single, è in difficoltà e nessuno lo aiuta. Walter, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto grazie di avermi ascoltato. Grazie a lei, Walter, ci dica. Niente, la mia situazione è critica proprio, perché io sono parecchi anni ormai che sono in difficoltà. Chiedendo anche aiuto al comune dove io risiedo, sì, va bene, mo vediamo, e non mi succede mai niente. Morale della favola, io non ho niente da mangiare. La gente qua, fra l'altro in paese, non mi vede di buon occhio, non ho capito perché. Non riesco neanche a fare piccoli lavoretti in campagna, perché prima qualcuno mi chiamava, adesso non mi chiama più nessuno, non so più dove sbattere la testa. Walter, magari a qualche associazione sul territorio, adesso io non dico la parrocchia, la Caritas, ci sono tanti centri di volontariato, lei oltre al comune ha provato a rivolgersi anche a qualcun altro, magari che l'aiuti anche ad andare in comune a parlare con grande franchezza alle persone che dovrebbero occuparsi delle condizioni come la sua? Lo so, ma sinceramente a me mi limitano anche la mia libertà in paese, io non posso neanche andare a avere amicizie, perché mi mettono tutti in cattiva luce le chiacchiere, il paesino piccolo. Ma questo magari lei, siccome lei adesso, Walter, siccome lei adesso è in difficoltà, magari pensa che gli altri guardino lei. Io le posso assicurare che molto spesso abbiamo questa convinzione e non è così invece che succede, perché ognuno pensa a quello che succede in casa propria, io di questo sono assolutamente certa. Quindi lei non abbia remore ad andare a chiedere aiuto alle associazioni che si occupano di questo, perché nessuno la guarda male, io di questo sono convinta, Walter, no? Ne ho avuta prova, mi hanno proprio preso violenza, mi hanno detto che io non devo più entrare in quel palazzo, quando io avevo delle amicizie, gente a cui facevo dei piccoli lavoretti e mi arrangiavo così, solamente perché sono separato e poi non lo so per quale altro motivo, purtroppo c'è molto bigottismo da queste parti. Come da tante parti, Walter, grazie. Provi comunque ad andare veramente, Caritas, queste associazioni qua, qualcuno che l'aiuta, io sono certo che la troverà. Vorrei sentire adesso Ibrahim da Torino, che invece è straniero, lui dice che la prima social card non ha facilità appunto a farne richiesta. Buongiorno Ibrahim. Sì, buongiorno, faccio i complimenti per la vostra trasmissione. Allora, il mio problema è che 3 mesi fa ho fatto la richiesta all'INPS di Torino. Io sono cittadino italiano, mia figlia italiana, ho fatto la richiesta, però mi è venuta negata. Non la vogliono dare perché soltanto perché mi chiamo Ibrahim. Ma sei sicuro che ha le condizioni reddituali per fare domanda? Sì, sono andato 5 volte alla signora responsabile dell'INPS. Mi dice così: lei c'ha tutto, va bene, come reddito, come requisiti. E il problema è che dobbiamo accertare che lei è italiano. Le ho detto: signora, tenga la mia carta d'identità, mio passaporto italiano anche di mia figlia. Le ho detto: signora, più di così cosa posso fare? Io mi sento impotente davanti a questa burocrazia italiana che non so cosa fare, è un diritto mio, però non so cosa fare. Grazie Ibrahim, devo andare in pausa, adesso ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio. La nuova Social Card 2013, sentiamo Torino come si sta preparando, come si sta organizzando con questa sperimentazione. Abbiamo l'assessore Elide Tisi alle politiche sociali della città. Punto, buongiorno assessore, proprio in queste ore peraltro credo stia presentando in comune, non so se in giunta o in che occasione ufficiale, assessore, appunto questa sperimentazione, ma credo che Torino stia partendo con un progetto più complessivo per l'aiuto alle famiglie in difficoltà, giusto? Ma sì, proprio anche queste ore, intanto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Stiamo presentando in quarta commissione un provvedimento che peraltro è già stato approvato nella giunta qualche giorno fa, di intanto adesione a questo progetto di Social Card, e speriamo che davvero diventi un primo strumento nazionale omogeneo di contrasto alle povertà nel nostro paese. Sicuramente se ne sente davvero un gran bisogno. Dall'altro stiamo anche coinvolgendo proprio i consiglieri, il Consiglio Comunale, perché riteniamo che proprio in questa accezione ci sia bisogno di calibrare questo strumento, che al momento non sarà ancora in grado, per le risorse che ha a disposizione, di corrispondere probabilmente a tutti i bisogni, dando delle priorità in particolare su alcune fasce di popolazione, quali ad esempio le donne sole con figli, e soprattutto andando anche a intervenire laddove c'è anche una forma di disagio abitativo. L'altro elemento che credo importante è che in questi mesi, proprio in preparazione della Social Card, di questo strumento che in qualche modo è nuovo rispetto alle modalità, perché interviene anche attraverso un coinvolgimento dei comuni e dei territori, abbiamo creato un lavoro integrato e congiunto con le organizzazioni del privato sociale e i nostri servizi, proprio perché vogliamo che la Social Card si intrecci con tutti gli strumenti già in essere, sia della città, delle politiche sociali, gli interventi di sostegno al reddito, ma anche attraverso un lavoro, diciamo così, di progettualità anche individuale condivisa con il privato sociale e le organizzazioni che lavorano sul tema. Certo, proprio per far uscire dalle condizioni di marginalità le persone, quindi non è sufficiente spesso solo l'aiuto economico, ma non è soprattutto dignitoso fare solo quello, no? Bisogna aiutare ad un reinserimento più complessivo. Assessore Tisi, io devo salutarla perché purtroppo tra 4 minuti termino, però le prometto che ci risentiremo tra qualche mese per capire come stanno andando avanti intanto queste iniziative su scala locale. La lascio ritornare in giunta, in commissione, dove stava presentando appunto la Social Card 2013, tutto il resto della progettazione appunto torinese. Rapidamente vado a Paola D'Ameri, assessore alle politiche sociosanitarie di Genova. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. E in un minuto chiedo anche a lei, Genova, come sta preparando ad erogare sul territorio la Social Card 2013, come sta personalizzando il progetto nazionale? Sì, a Genova abbiamo puntato sulla individuazione di alcuni criteri, diciamo, di personalizzazione, che riguardano in particolare il tema del disagio abitativo. Questo perché è una fragilità che a Genova è particolarmente forte, soprattutto per quel target di famiglie a cui la Social Card si rivolge. Si tratta cioè di famiglie con minori in cui uno o più membri adulti della famiglia hanno perso il lavoro da un massimo di tempo di 36 mesi. Quindi sono famiglie che si trovano in una grave condizione di carenza economica, ma che magari hanno una propria casa, stanno pagando un mutuo, stanno pagando un affitto. E per evitare che oltre allo, diciamo, al lavoro perdano anche la casa, noi ci focalizzeremo in modo particolare su questo tipo di target. Di emergenza. Grazie all'assessore Paola Adameri, alle politiche sociosanitarie di Genova. Mi rimangono due minuti di tempo, li spendo con Francesca Milano. Rispondiamo ad Ibrahim. Sì, gli rispondiamo dicendo che probabilmente la sua richiesta era riferita alla carta acquisti vecchia, sì, sì, e la carta acquisti vecchia è destinata ai pensionati, quindi a chi ha oltre i 65 anni e alle famiglie con bambini fino a 3 anni, quindi probabilmente lui non ha questi requisiti, magari sua figlia è leggermente più grande, mm-hmm. potrebbe essere questo. E, no, ma infatti voglio dire, anche perché non capisco perché allo sportello INPS non gli dicano la prima non aspetta ai lavoratori, alle persone straniere, cioè esatto. adesso per la seconda. No, poi se ha la cittadinanza non c'è problema, probabilmente invece può assolutamente fare richiesta per la carta acquisti sperimentale, che quindi partirà in autunno, perché l'importante è che il figlio sia minorenne, quindi anche se la bambina è un adolescente, una ragazzina, insomma lui potrà richiedere questo sussidio, ed è importante ricordare che non è soltanto un sussidio economico, ma appunto i comuni dovranno mettere a punto dei progetti personalizzati per le famiglie, perché l'intento è soprattutto quello di reinserimento sociale e lavorativo, non è soltanto quindi un contributo, un aiuto economico mensile, ma è proprio la voglia di far reintegrare questa persona nelle società. L'ultima telefonata la raccogliamo da Vito dalla provincia di Roma, rapidissimo. Vito, grazie, anche se mi rendo conto che il suo caso avrebbe bisogno di essere accompagnato in tempi un po' più ampi, però ci perdoni, ci racconti. No, io salve, vi ringrazio della possibilità che comunque sia avete dato a tutti. Io come tutti gli altri che mi hanno preceduto non faccio altro che rinnovare proprio le nostre difficoltà ad andare a chiedere aiuto ai vari servizi sociali, ai vari patronati, ai vari Caritas, e molte volte uno già si sente mortificato per la situazione che uno già prova in sé per sé, per la difficoltà che uno per non arrivare al fine mese. Questo mese io posso dare testimonianza che ho 4 figli, non ho potuto pagare il mutuo e non so se il prossimo mese ne riuscirò a pagare l'altro. Ha potuto fare la sospensione del mutuo almeno, Vito? Ha fatto la richiesta? No, perché? No, l'ho fatto perché non rientro nei parametri. Dice la banca, perché nei parametri che io comunque sia lavoro, e a meno che io, certo. scusate le parole crude, che non perdo lavoro oggi o che non mi ammali di una malattia grave prima di subito, io non ho potuto. Ci mancherebbe, Vito, speriamo di... Quanti anni hanno i suoi bambini? L'ultima a 7 mesi, ho un bambino più grosso di 12 anni e due gemelli di 7, quindi perfetto. Ho 4 figli. Vito, allora, a Roma la social card ha la dotazione più importante, magari provi a verificare se rientra, però lavora ancora Vito, Francesca, per fortuna almeno per lui, uno dei due genitori, se ha la moglie, almeno uno dei due deve aver perso il lavoro negli ultimi 36 mesi, però ecco, se così fosse magari può rientrare anche nel beneficio più grosso di 404 euro mensili. Benissimo, ci ritorneremo su questi argomenti, grazie a tutti, io domani non ci sono, c'è Valeria De Rosa, buona giornata. Salva Danaio.